Io sono sempre in Corso Torino, hanno chiuso completamente uno degli accessi a lungo la Massicciata per Brignole, hanno chiuso tutto il Corso Torino con molta molta polizia, i manifestanti stanno tornando indietro, li prendono uno per uno o a due, se li portano via, cioè sono dei ragazzi che dicono ma non c'entriamo niente, hanno il casco in mano e questo sicuramente è un discrimine. Tre ragazzi, un altro l'hanno preso, gli hanno sbattuto sul casco, gli hanno fatto togliere le scarpe, ne hanno preso un altro dalla cabina del telefono, ne hanno presi un altro che ho visto che stava uscendo dalla come escono dalla galleria li pinzano subito. Ecco, scusa Angelo, via. Tu dici l'hanno preso, gli hanno tolto il casco, è gente col casco, è gente semi armata questa che prendono? No, parliamo di gente col casco o gente senza casco, visto uno che usciva con un cappello molto strano, uno zainetto in vista. Ok, quindi è indiscriminata la cosa, non si rivolge a chi è bardato da... Questo è quasi come se fosse il saluto di commiato, visto che molti iniziano a defluire da queste gallerie, li prendono e li portano dietro i blindati. Dietro i blindati io non riesco a vedere che cosa succeda. Devo dire sinceramente che la mia impressione è che non si tratti di un controllo dei documenti, per come li prendono e per come li trattano. I poliziotti quando erano senza casco guardavano i manifestanti, pochi manifestanti che erano fermi all'angolo con sguardi veramente brutti da vedere. Molto molto incazzati, devo dire. Questi che stavano arrivando, ma adesso così in graduato, sono quelli buoni, questi sono quelli buoni, però li stanno schiacciando nella galleria e intanto provvedono a prenderne di qui e di là e a portarseli via. Io ho preso la strada verso Marasco insieme al grosso della manifestazione che si sta sciogliendo, ma che resta di fatto una manifestazione, visto che il Genova Social Forum ha detto il posto più sicuro dove raggrupparsi, dove in sostanza fare il punto per riorganizzarsi all'interno dei vari gruppi è Marassi. Questa tra l'altro è una consegna che vale per tutti, soprattutto non andate in giro in gruppetti, non avvicinatevi alle forze di polizia quando le vedete, non è assolutamente il caso di andare a Brignole in questo momento, i treni speciali non partiranno se non ci saranno tutti quelli che l'avevano presa l'andata, l'appello. Il rischio di trovarsi in bocca alla polizia, una polizia che sembra ancora abbastanza sul piede di guerra, è molto molto elevato. Praticamente mentre tornavamo alla stazione per prendere il treno e ritornare nella nostra città, sono arrivate appunto le forze dell'ordine e prima il mio ragazzo l'hanno spinto in un cespuglio, quando io ho provato a tirarlo fuori ci hanno praticamente aggredito, io ho picchiato il ginocchio e mi hanno continuato a dare un paio di manganellate, ho tirato fuori il mio ragazzo, l'hanno praticamente arrestato lì, poi non l'hanno portato in questura, l'hanno solo portato dove lo potevano picchiare con la calma e hanno fatto tutto quello che volevano fare loro. Il problema grosso è quando mi hanno portato in macchina, nonostante schiaffi, spintoni e sputi che sarei passato sopra anche a quello, un poliziotto con l'aria molto convinta e gli occhi insanguinati mi ha detto il fascio è tornato, tremate sporchi ebrei. Mi ha spaventato di più di tutte le botte che ho preso. Piazza Giusti, proprio dietro la stazione di Brignole. Qui in piazza ci sono circa 4-5 mila persone, sono stati incendiati alcuni cassonetti, alcune automobili, la piazza si è spostata verso nord su Corso Sardegna e poi subito dopo sono iniziati gli spari dei lacrimogeni della polizia che probabilmente sono stati sparati direttamente da sotto la galleria. Dall'altra parte di Brignole infatti ci sono ancora moltissimi agenti in assetto antisommossa, la galleria, come potete ben capire, è una camera gas. È arrivata la camionetta della polizia a velocità spaventosa, noi abbiamo alzato le mani perché eravamo seduti tranquillamente, sono scesi, hanno iniziato a sprangare, hanno messo tutta la gente in ginocchio, appoggiato con la faccia contro il muro, manganellate e scarpate micidiali. Un signore oltre i 40 anni che difficilmente aggrediscono un poliziotto, erano in ginocchio, picchiate, uno era un colonnello, c'erano i poliziotti o carabinieri, non ho ancora capito chi erano, che chiamavano colonnello stia calmo, smetta colonnello, è quello che menava di più era lui. Hanno fatto un gioco che si vede nei film, che è questo, gli hanno detto a quelli che sono stati proprio menati, ragazzi un po' più giovani, menati, adesso contiamo fino a tre, scappate. 1, 2, 3 E gliele hanno date. Poi mia ragazza è caduta, è andata una manganella in testa, dei calci, mi sono messo sopra, ho iniziato a picchiare me sopra, che gli chiedevo di stare fermi perché non c'entravamo nulla. Ormai sono ore che scappiamo, gli unici che ci aiutano sono veramente i genovesi, ci passano l'acqua, ci indicano le strade, escono dalle loro case per spiegarci come arrivare e poter continuare questa manifestazione. 10 minuti fa Vittorio Agnoletto ha incontrato Francesco Colucci in una situazione quasi paradossale, perché sul lato della strada di Corso Italia, dove ancora stanno passando e continuando a defluire delle persone e dove ci sono i resti anche delle cariche di oggi pomeriggio. Agnoletto ha parlato in modo molto duro con il questore, dicendogli che la situazione è gravissima, accusandolo di aver caricato apertamente una manifestazione pacifica e di non aver garantito neanche l'apertura del corteo, permettendo a individui armati di unirsi e mescolarsi alla testa del corteo entrando dentro la città di Genova. Il questore va detto che si è allontanato dopo neanche 3 minuti, sganciandosi immediatamente da questo colloquio e lasciando solo alcuni dirigenti di polizia in borghese, che sono gli stessi che hanno partecipato ad alcune delle cariche che si sono svolte qui su Corso Italia, che si sono svolte a Piazzale Kennedy, lasciando loro a parlare con Agnoletto. Genova Social Forum ha denunciato poco fa che 2 medici volontari del Genova Social Forum sono stati fermati per un controllo e poi non gli hanno più ridato indietro i documenti. Dopo, racconta ancora il Genova Social Forum, c'è stato un fumogeno sparato da un elicottero che ha infranto il vetro di un furgone che veniva usato dai volontari come ambulanza e l'ha rotto.